Topic of our Dhamma talk, Khatna, today is mindfulness of perceptions. Il discorso di questa sera con argomento la consapevolezza delle percezioni. And Satya, this this is an aspect Satya that oftentimes Satya doesn't get Satya treated Satya very much, but it's very interesting. Questo è un argomento, un aspetto che non viene sempre molto trattato, ma è molto interessante. No, mindfulness of Satya, the aggregate of Satya perceptions, is Satya part of Satya, the fourth Satipatthana, namely Dhamma Nupassana, Satipatthana, mindful contemplation of Dhammas. Quindi questa consapevolezza dell'aggregato delle percezioni fa parte del quarto Satipatthana, cioè il Dhamma Nupassana Satipatthana, cioè la consapevolezza dei Dhamma. No. That fourth establishment of mindfulness covers mindful contemplation of the hindrances, of the aggregates, the six sense spheres, then the seven enlightenment factors, and finally the Four Noble Truths. Quindi questo ultimo satipattana, questo ultimo fondamento della consapevolezza, copre la consapevolezza sui cinque ostacoli, sulle sei basi dei sensi, sui cinque aggregati, sulle sette fattori dell'illuminazione e sulle quattro nobili verità. Questi sono i Dhamma. Now, the instructions that the Buddha has given in the Satipatthana Sutta itself with regard to mindful contemplation of the aggregates are as follows. Quindi le istruzioni che ha dato il Buddha riguardo alla contemplazione consapevole degli aggregati sono le seguenti. Now, one knows such is material form, such its arising, such its passing away. Allora, una persona conosce la forma materiale e conosce il suo sorgere e conosce il suo passare. Then, one knows such is feeling, such its arising, such its passing away. Uno conosce le sensazioni, conosce il loro sorgere e il loro passare. Such is perception, such its arising, such its passing away. La persona conosce o riconosce le percezioni, conosce il loro sorgere e conosce il loro passare. One knows such are mental volitions, such their arising, such their passing away. Uno conosce le volizioni mentali e questo è il loro sorgere e questo è il loro passare. And then finally one knows such is consciousness, such its arising, such its passing away. E infine uno riconosce questa è la coscienza, questa è il suo sorgere, questo è il suo passare. Now, the Buddha speaks of five aggregates, so the aggregate of materiality, of feelings, of perceptions, of volitional formations, and suddenly then of consciousness. Quindi Buddha parla di questi cinque aggregati, cioè l'aggregato della forma, quello delle sensazioni, delle percezioni, delle volizioni mentali e infine della coscienza. So, with regard to each and every of those five aggregates, the Buddha gives us three instructions. The first one is such is its nature. Quindi such its arising and such its passing away. Quindi riguardo a ciascuno di questi aggregati, il Buddha dà tre istruzioni. Cioè, conosco la natura dell'aggregato, poi io riconosco quando sorge e riconosco quando passa. So, the instruction, such is perception, refers to the nature of perception. So what is the nature of perception? And then the two other instructions with regard to the arising and the passing away, well, they deal particularly with the impermanence of of perception in this case. Quindi per quanto riguarda l'aggregato della percezione, le istruzioni sono questa è la percezione e in altri termini io conosco la natura della percezione. Per quanto riguarda le altre due istruzioni, cioè il suo sorgere e il suo passare, queste sono più relative alla impermanenza della percezione. No, in general terms, the mindful contemplation of the aggregates, just like the other contemplations, has the potential to lead a retreatant to the realization of the Dhamma, so up to arhatship. Quindi la consapevolezza degli aggregati, così come la consapevolezza degli altri fondamenti della consapevolezza, può portare una persona fino alla realizzazione del Dhamma, ovvero fino alle porte dello stato di Arahant. And so this thing that means that certainly this mindful contemplation of perceptions has at least the potential to lead us to the realization of the Dhamma. E quindi questo significa che la contemplazione dell'aggregato della percezione o delle percezioni ha in sé questa potenzialità di condurci fino alla realizzazione del Dhamma. No, as certain human beings, especially if we don't bother about certain being mindful, tend to have a lot of attachment and desire with regard to the five aggregates, so what is known as a being, conventionally known as a being. Quindi come esseri umani, se non sviluppiamo la consapevolezza, tendiamo a avere dell'attaccamento o del desiderio per gli aggregati, e questo porta a un attaccamento, un desiderio per quello che si chiama convenzionalmente un essere umano. No. Still in general terms, the essence of those five aggregates has been described very nicely by way of various similes or illustrations, and those I would like to share with you. Quindi sempre per quanto riguarda l'essenza o la natura di questi aggregati, beh, questi sono stati descritti attraverso delle similitudini o delle immagini, e adesso queste verranno illustrate. So in one discourse, the aggregate of material form is compared to the insubstantial nature of a lump of foam carried away by the water of a river. Quindi per quanto riguarda il primo aggregato, quello della forma materiale, in un discorso questo viene associato, viene paragonato a della schiuma che viene trasportata via da un fiume, nella sua natura di insostanzialità. Now, in terms of the feelings, feelings are being compared to impermanent bubbles that form on the surface of water during rain. Invece per quanto riguarda l'aggregato delle sensazioni, come vedana, quindi gradevoli, spiacevoli o neutre, queste sono paragonate all'impermanenza che viene con delle bolle di acqua che vengono provocate dalla pioggia, sempre su un fiume, per dire. And so when it comes to the aggregate of certain perceptions, this is being compared to the illusory nature of a mirage. Invece per quanto riguarda l'aggregato delle percezioni, questo viene associato alla natura illusoria come quella di un miraggio. And certainly in the case of volitional formations, these are compared to the essenceless nature of a plantain tree which has no hardwood, which has no core. Invece per quanto riguarda le formazioni delle non so, scusate, l'aggregato delle volizioni mentali, queste vengono paragonate ad un tronco di banano, perché non ha nessuna essenza interna, non ha nessun come si può dire, nucleo. All'interno di un albero, sì, non è proprio il nucleo, ma non mi viene in termine adesso. Comunque la natura priva di essenza interna. No, in the case of consciousness, the aggregate of consciousness, this is being compared to the work of or deceptive performance of a magician. Invece per quanto riguarda l'aggregato della coscienza, questo viene paragonato al lavoro illusorio, diciamo, o ingannevole di un illusionista, ecco, di un mago illusionista. And so that certain perceptions are like a mirage that indeed is quite true when one starts paying attention to perceptions. Quindi tornando all'aggregato delle percezioni, sono effettivamente come un miraggio se uno effettivamente ci pensa bene, ci presta attenzione. No. In order to get a better understanding of what is meant by perception itself, well, the Samyutta Nikaya, or in its 22nd collection, which is about the aggregates, defines it as: it perceives, therefore it is called certain perception. Per quanto riguarda la descrizione della percezione, così come viene descritto nel Samyutta Nikaya, nel capitolo 22, che è quello dedicato proprio agli aggregati, allora si dice esso it perceives in the sense of a person perceives. No. It perceives and therefore it is called perception. Quindi percepisce, dunque è chiamata percezione. And then this gets explained further. It perceives as yellow, red, blue, green, white, and so on and so forth. Poi viene spiegato meglio dicendo percepisce in quanto blu, giallo, verde, eccetera, eccetera. E quindi si chiama percezione. Now, the mental factor of perception performs a very particular function, namely that makes a sign as a condition for perceiving again what has been perceived the first time. Ecco, quindi la percezione come fattore mentale ha questa funzione, che è come se segnasse l'oggetto in modo che poi possa venire riconosciuto una seconda volta. No. A beautiful example in this regard is that of a baby. So if a baby for the first time, and maybe 1 month old, 2 month old, sees this alarm clock, then it will touch the alarm clock, look at it, maybe listen to it, maybe put it into the mouth, and then get some idea of it, and then maybe the mother will say, this is an alarm clock. And so with this then, the child, the baby will remember this, and in the future then will recognize a similar object as an alarm clock. Quindi un bel esempio per questa funzione della percezione è quello di un bambino piccolo che vede per la prima volta una sveglia, per esempio, allora la tocca, la guarda molto bene, magari la mette anche in bocca per conoscerla, e poi la mamma gli dice questa è una sveglia. Da lì in poi, in futuro, ogni volta che il bambino vedrà un oggetto simile, lo riconoscerà come sveglia. And so two things need to be distinguished here. Perception works as perceiving an object or perceiving the qualities of an object, and then secondly also as certain recognition in the sense of certain memory. Quindi qui possiamo vedere una doppia funzione della percezione. La prima è quella di effettivamente percepire la qualità di un particolare oggetto con le sue caratteristiche, la seconda è quello poi di riconoscere quell'oggetto, e quindi è una funzione più di ricordo, di memoria dell'oggetto. So, the classical fourfold definition of perception is as having the characteristic of perceiving the qualities of an object, and secondly, and its function is to make a sign as a condition for perceiving it again as such and such an object. E quindi nella classica descrizione, no, suddivisa in quattro parametri, diciamo, di questa della percezione di questo oggetto mentale è la seguente. Quindi ha la caratteristica di percepire l'oggetto, ha la funzione di lasciare un segno affinché questo oggetto venga poi riconosciuto. And certainly the second function is then that of recognition. So having perceived something, an object certainly beforehand, then when one sees it or encounters it a second or third or fourth time, then one recognizes it as a known object. Quindi questa seconda funzione, come abbiamo detto, è quella di riconoscere l'oggetto quando viene rincontrato una seconda volta. Quindi ha di nuovo questo aspetto del ricordarsi l'oggetto che si è già percepito una prima volta. And certain, the mental factor of perception is said to manifest as certainly the interpreting of an object. Invece la manifestazione è quella dell'interpretazione di un oggetto, cioè si manifesta come l'interpretazione di un oggetto. By way of its certain different features. Quindi lo interpreta sulla base delle sue diverse caratteristiche. And so, just like a carpenter who is, let's say, in the process of making a table from wood, will make each single piece and then will mark each piece so that later on the carpenter knows, okay, this is this piece goes here and another piece goes somewhere else and so on and so forth. E quindi un esempio di questo è come di un falegname che sta costruendo un tavolo. Prima costruisce le varie parti e le segna in modo da sapere poi quando lo mette insieme, questo va qui, quest'altro va dall'altra parte, e può comporre il tavolo. So, with this, we have to some extent described or defined perception itself, and in terms of the aggregate of perception, this the Visuddhimagga defines as whatever has the characteristic of perceiving should be understood, all taken together as the aggregate of perception. Per quanto riguarda invece l'aggregato in sé della percezione, il Visuddhimagga lo descrive nel seguente modo: qualunque oggetto che ha in sé la capacità di percepire, questo va considerato come l'aggregato della percezione. No. In the course of one day, many, many, many perceptions will take place. Nell'arco di una giornata avverranno molte percezioni. So, we'll see some visible object, and then we perceive it to be such and such. Per esempio, vediamo un oggetto, lo percepiamo come il tale oggetto, fatto così o cos'ha. Or maybe we sit here in the meditation hall and suddenly we hear the sound of an engine, and suddenly then maybe we hear certain voices, and then we maybe know such and such a person has arrived. Oppure siamo qui seduti in sala di meditazione, sentiamo il rumore di un motore, poi sentiamo magari una voce, la riconosciamo, dice ah, la tale persona è arrivata. Now, perception as a mental factor is one of the seven universal mental factors, which means it arises with all consciousness. So it arises at all times. Whenever moment of consciousness arises, perception will be there. Just like feeling will be there, just like contact will be there. Quindi la percezione come oggetto mentale, diciamo, è considerato uno dei sette universali, uno dei sette stati mentali universali. Questo significa che sorge ogni volta che ci sia un attimo di coscienza. Insieme, per esempio, come altri sette universali, insieme alle sensazioni, insieme al contatto e così via. And suddenly this perception then can be divided according to its certain ethical qualities as wholesome perception when it arises together with wholesome consciousness, as unwholesome perception when it arises together with unwholesome consciousness, and then as indeterminate perception when it arises together with indeterminate consciousness. Per quanto riguarda invece le sue caratteristiche etiche, allora la percezione può essere salutare quando sorge con uno stato mentale salutare, una coscienza salutare, scusate, può essere non salutare quando sorge in concomitanza con una coscienza non salutare, o indeterminato quando sorge con una coscienza indeterminata. So to be very clear, this mental factor of perception at times may arise together with wisdom, at other times it might also arise together with ignorance, so things may change. Quindi, per essere chiari, questa percezione può sorgere con il fattore mentale della saggezza o con il fattore mentale dell'ignoranza, e quindi ovviamente le cose possono cambiare. And certainly when perception arises together with wisdom, intuitive wisdom, then we might term this as right perception, and if perception arises together with ignorance, then we could term this as wrongful perception. Quindi se la percezione sorge con la saggezza intuitiva, possiamo chiamarla la saggezza retta o giusta. Se invece sorge con uno stato non salutare, la possiamo chiamare una percezione errata. No, if we look at the life of a human being, then the perceptions that one tends to have, let's say, before intensive meditation practice, may be of a certain type. And then in the course of the practice, the perception will change, and it is said that an arahant, so a person who has practiced to fulfillment, will have perfectly purified perceptions. Quindi nell'arco di una vita umana, le percezioni di una persona che non ha nessuna esperienza di pratica meditativa saranno di un certo tipo. Nel corso invece della pratica le percezioni cambieranno, e si dice che un arahant, che è un illuminato, uno che ha completato il percorso meditativo, diciamo così, che ha raggiunto il Nibbana, si dice che avrà una percezione perfettamente purificata. No. When we observe an object, any object, it doesn't really matter, and then we've said in the past, well, there's the occurrence of the object, and then there's the labeling plus the observation of the object, and then there's knowing the nature of the object. Among those three things, which one is perception? Quindi abbiamo detto che quando sorge un oggetto, noi dobbiamo notare il sorgere dell'oggetto, poi etichettarlo e conoscere la natura dell'oggetto, etichettarlo e osservarlo, e infine conoscere la natura dell'oggetto. Quindi ci sono queste tre fasi. Di queste tre fasi, qual è la percezione? Hai detto qualcosa? L'ultima hai detto? Sì. This is the last one. Knowing the nature. The last one. Oh, knowing the nature. Knowing the nature. Yeah, knowing the nature is the last one, but that's not perception. Non è la percezione. Quella è la saggezza. Labeling. Ah, there you go. Labeling. Labeling, e quindi quando si fa l'etichetta mentale, quella è la percezione. So, this answer is certainly correct. The observation, the actual observation, being aware of an object, being mindful of an object, being present with an object, all of these expressions are terms for mindfulness itself, for sati. Whereas the labeling, putting a name onto the object that one is currently observing, that corresponds to your perception. Because, let's say, when we observe a pain, then first we recognize, oh, this is pain, and then we start labeling it as such. Quindi diciamo che l'osservare, il conoscere, il notare, tutte queste espressioni, l'essere consapevoli, tutte queste sono espressioni di sati, questa particolare facoltà della mente che è la presenza mentale, la consapevolezza. Invece l'etichettare, questo sì che fa parte di questa funzione del percepire l'oggetto. Quindi, per esempio, sentiamo un dolore nel corpo, il fatto che noi lo etichettiamo come dolore, stiamo svolgendo, diciamo, la funzione della percezione. Okay. Now, let's say there is in the meditation practice an object that has the following qualities, namely, there's hardness to it, then maybe also some burning, and then it's accompanied by an unpleasant feeling, and it's rather compact. So, what is this? As what would you perceive this? Allora, immaginiamo che sorga un oggetto e noi lo sentiamo come le sue qualità sono di durezza, poi magari c'è del bruciore, è accompagnato da una sensazione spiacevole. And the last thing you said about the sensation is that burning, unpleasant, compact. E lo vediamo come un oggetto compatto. Bene, tutto questo cosa... What do you recognize this? In che modo lo riconoscete questo? In the sense of what label? Body pain. Ah, there you go. Okay. And so, obviously, it's not a mental object. Quindi si dà l'etichetta di un dolore fisico del corpo. Ovviamente non è un oggetto mentale. To take a different example, so let's say if the object is, or to the object there's some movement there, and there may be there's some smoothness to it, and maybe it's even airy, and they're quite, and let's say, neutral, then you recognize this as what? Invece c'è un oggetto morbido, c'è dell'aria dentro, c'è movimento, è liscio. Beh, questo come che tipo di oggetto sarebbe? Come lo riconoscete? C'è del movimento, è morbido, può essere dell'aria. Vincent saying it's a mental object, not really. Breath, like breath. Oh, there you go. The breath. Respiro. So the rising movement or falling movement of the abdomen. L'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. So basically, perception is nothing other than this, that one carefully gathers information, or when carefully gathers details about a certain object, a little bit of this, a little bit of that, and so on and so forth, and then eventually the mind recognizes this as such and such an object. Quindi questo è proprio il lavoro della percezione. E raccolgono un po' di dettagli, un po' di caratteristiche di un oggetto, poi la mente lo riconosce e dice: ah, è questo oggetto. Now, perceptions are tricky, they're really tricky. And if we take our perceptions for granted and we don't double check, then easily we might get misled. Quindi le percezioni sono molto ingannevoli e se le prendiamo per scontato e non le controlliamo ancora ripetutamente, facciamo un doppio controllo, allora possono effettivamente fuorviarci. So, if let's say during the hours of Phutnya Sandhya set, if we walk along a road and Satnya Din, we see some object lying across the road. Then we might ease, and let's say the object is a little bit curved or so, then we might easily mistake this for a snake. But in fact, it's maybe just a curled leaf, or it might be just a rope, but that is lying there in a wave-like manner. Immaginiamo di camminare su una strada al tramonto e vediamo qualcosa di curvo che giace sulla strada. Se ci attraversa la strada potremmo pensare che sia un serpente, però se lo guardiamo meglio scopriamo che invece può essere una foglia piegata o un pezzo di corda. Now, the Venerable Sadhu Pandita Nibbu himself, in Burma, gives an example that is also very, maybe even much better, namely that of, some objects crossing, or a person looking at some object that is lying across the road. And at first sight, it looks like a stick. But then, upon closer, going closer to the object, and upon close observation, it turns out it's not a stick that is lying across the road, but rather some insects seem to be moving, a row of insects seem to be moving across the road. When going, approaching the object even closer, the same object realizes, oh, this is not just a general sense or a row of insects, but one sees the individual ants crossing the road. So the initial perception as a stick lying across the road is one thing, and what one sees upon close observation is another thing. Il Venerabile Upandita dà un altro esempio per questa percezione che può essere ingannevole e fa l'esempio di quello che sembra essere un bastone che attraversa il nostro sentiero, la nostra strada. Se ci avviciniamo un po' di più vediamo che in realtà non è un bastone ma sono tanti insetti in fila che si muovono. Se ci avviciniamo ancora di più e osserviamo meglio, vediamo anche la natura degli insetti, vediamo che sono delle piccole formiche che si stanno muovendo e stanno attraversando la strada e li vediamo nella loro individualità, uno per uno. Now, in our meditation practice, we might also make such a discovery. Now, when we first observe the rising and falling movement of the abdomen, we tend to see it as what? Quindi potremmo fare una scoperta simile nella nostra pratica. Per esempio, quando osserviamo l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, noi potremmo vederlo in che modo? The movement itself. Il movimento stesso. Ah, there you go. The movement in two parts, one rising and one falling. And then, when we observe more carefully, then what do we notice? What do we perceive then? Inizialmente possiamo percepirlo solo come due movimenti. Okay. Un movimento che si alza e un movimento che si abbassa. Guardandolo più attentamente, cosa riusciamo a percepire? Sono tre, cioè c'è una pausa. If you want to, you can even say four, two pauses. Sì, potremmo anche dire quattro, cioè una pausa dopo l'alzarsi e una pausa dopo l'abbassarsi. Yeah, so when one observes the rising and falling, when one observes one rising movement of the abdomen more carefully, then what would one recognize? Ma se uno poi osserva attentamente solo il movimento dell'alzarsi dell'addome, cosa percepisce se lo guarda più da vicino? The different places where it goes. Different places it goes. Yes, okay. One pause. Anything else? Time. time. Quindi diversi posti dove va, il tempo. Is it really one continuum? Ci sono anche delle sensazioni sulla donna, si sente anche. There are the sensations in it. Okay. Are you talking about beginning, middle, and end? Yeah, there you go. And so what you might also find is that one single rising movement consists of many rising movements. There you go. Many smaller rising movements. So one rising movement then turns out to be segmented, a segmented movement. It could be three segments, it could be 4, 5, 10, 15. Uno poi vede che all'interno di un movimento dell'alzarsi dell'addome ci sono tanti piccoli movimenti, quindi è come se fosse segmentato, ce ne possono essere 2, 3, 10, 15 e via di seguito. And suddenly when you then observe this suddenly such a segmented rising and falling or one rising movement even more carefully with even sharper mindfulness and concentration, then at times you might perceive it as just a series of dots, and that's all. Quando uno poi lo guarda ancora più da vicino, ancora più attentamente, questo movimento dell'alzarsi e l'abbassarsi potrebbe arrivare a vederlo solo come una serie di piccoli puntini e basta. And then one could assume that's it, that's the final the way of perceiving the rising and falling, and what do you think? Is it really the ultimate? E uno può dire, beh, adesso sono arrivato, questo ho veramente una percezione chiara dell'addome, ma è proprio così? And it's not. Non è così. It's not the case. And meditators have reported that the rising movement or a rising movement is more perceived as waves. Molti meditanti riferiscono che poi il movimento dell'addome viene percepito più come delle onde. No. We tend to think that perception, the mental factor of perception, is rather permanent. There's only one way of perceiving things. Tendiamo a pensare che questo fattore mentale della percezione sia permanente, cioè che ci sia un solo modo per percepire le cose. And that it's permanent in the sense that it's always suddenly operating, non-stop. Permanente nel senso che sta sempre operando, funzionando, non-stop, senza fermarsi. However, well, this gets a bit complicated. For the one thing, we have, as discussed, changes in the perception of one and the same object as we go deeper into it. In realtà non è così, come abbiamo già detto, la nostra percezione dello stesso oggetto cambia man mano che ci avviciniamo nell'osservazione. Now, if we're observing a certain object, let's say hardness, just as an example, and the hardness stays more or less the same, then at times it might happen that we realize perception is kind of like on and off and on and off and on and off. Per esempio, immaginiamo di osservare la durezza, quello che percepiamo come durezza, ma potremmo con l'andare del tempo vedere che la percezione è un po' come a intermittenza, cioè prima c'è, poi non c'è, no? È accesa, spenta And so in other words, perception is arising, passing. One moment of perception is arising and passing. In altre parole, è come se la percezione sorgesse e svanisse, sorgesse e svanisse. And meditators have also reported that at times there's just suddenly the ending of perception itself. E i meditanti riportano a volte che c'è solo la parte finale della percezione. So, with these experiences, and they're still limited, one can, or it would be wrong to say that certain perception itself is permanent. Quindi con queste esperienze, che sono comunque esperienze limitate, ma già con queste sarà impossibile dire che la percezione è un fenomeno permanente. No. Because perception is changing or subject to change, it is referred to also be subject of anicca. Quindi poiché è soggetto a cambiamento, la percezione, allora si può anche dire che è soggetto ad anicca. Now, having to perceive objects, let's say, 18 hours a day may at times be quite burdensome, maybe at times quite tiring and exhausting. And at times one might suddenly experience just this particular aspect, and suddenly with this then one can say, yeah, that perception itself, sanya, is also subject to dukkha and satisfactoriness. Quindi dover percepire per 18 ore al giorno potrebbe risultare in un'attività molto pesante, molto stancante. E quindi vista in questa dimensione, la percezione o sanya può essere considerata dukkha, quindi insoddisfazione. No. At times, ideas are there that when it comes to the self, and then the self is identical with perception, and so that the self then is identical with perception. Let's leave it with this. A volte può sembrare che il sé sia identico alla percezione, coincida con la percezione. Or is the seat of the self. O che la percezione sia la sede del sé. And so, when observing really carefully, one realizes perception is just another mental object, and it comes and goes. Ma. And it's not the seat of the self. Quando uno guarda più attentamente, vedrà che la percezione è solo un altro oggetto mentale, e che semplicemente sorge e passa come tutti gli altri, e non è quindi la sede del sé. And so, also, at first, one might, as an uninstructed meditator, one might identify with one's perceptions by saying, okay, I perceive such and such features. But upon closer observation, one realizes it's not I am perceiving, it's just one perceives as this or that. E come persona non istruita, diciamo, nella meditazione o nella pratica, uno potrebbe pensare, nel osservare le caratteristiche particolari di un oggetto, io percepisco questo o quest'altro, ma in realtà, se presta maggiore attenzione, vedrà che c'è solo la percezione di questo o quest'altra caratteristica dell'oggetto. So with this kind of experiences or findings, then it does make sense to say that perception is subject to anatta. Quindi con queste considerazioni possiamo dire che la percezione è soggetta ad anatta, al non sé. And so to support this statement, in the seeing process we have the visible object, and then we have the eyes with which we see. The meeting of the two then leads to the arising of seeing consciousness. And then, based on this, when those three come together, namely the visible eye, or a visible object, then the physical eye, and suddenly the seeing consciousness, this is known as contact. And based on contact, feeling arises, and based on feeling, perception arises. Quindi possiamo dire che esiste l'oggetto visivo e l'occhio fisico che osserva l'oggetto, quando questi due entrano in contatto, diciamo, o quando questi due si presentano contemporaneamente, sorge la coscienza visiva. Quando tutti e tre questi elementi si presentano o sorgono, di conseguenza si ha il contatto e come conseguenza del contatto si ha la sensazione, come conseguenza della sensazione si ha la percezione. Now, the same thing applies to the other sense door processes. E lo stesso vale per i processi alle altre porte dei sensi. Now, in the course of our meditation practice, the perception chanasanya undergoes changes, remarkable or marked changes. Nell'arco della nostra pratica meditativa, sanya, o la percezione, è soggetta a notevoli cambiamenti. So, for instance, as a retreatant on an intensive retreat, we go to the dining hall for food, and suddenly then, or to the kitchen, and suddenly then delicious food is being served, we take, we eat, we enjoy the food. And this may be going on for many days. And then if in our practice, sooner or later we get to a very particular inside knowledge, all of this changes. The food is as delicious as ever, and yet a meditator starts to perceive it as insipid, mm-hmm. and without taste, mm-hmm. as a bit flat. Okay. Quindi, per fare un esempio, un meditante in un ritiro intensivo potrebbe andare a prendere il suo pasto in cucina e gli viene servito del ottimo cibo e apprezza il cibo che gli viene dato, il gustare questo cibo. Questo può andare avanti per diverso tempo. Poi arriva un particolare insight, una particolare fase della pratica, quando il cibo, che è altrettanto gustoso come in precedenza, ha però una qualità insipida, non ha più lo stesso gusto, è piatto, diciamo. Another practical example, our nun from Lumbini, Venerable Shantidotna Badamanika. She's related. When she was just before, I think before she went to university or during her early years at university, she went on a retreat. And she had very long hair and was proud of this hair. It meant a lot to her. And then she did intensive practice, she got to a certain point and she just couldn't stand the long hair anymore. She went back home and had everything cut off, went back to the meditation center, and then people greeted her as a new yogi, but it was the same yogi. Per fare un altro esempio, c'è la monaca che sta lì a Lumbini che racconta che quando stava iniziando l'università, nei suoi anni universitari, è andata a fare un ritiro intensivo, aveva dei capelli molto lunghi, di cui era orgogliosa, a cui teneva molto, però con l'andare avanti della pratica ha cominciato a essere infastidita da questi capelli così lunghi. Quindi è tornata a casa, si è tagliata i capelli, quando poi è tornata al centro di meditazione nessuno la riconosceva, pensavano che fosse arrivata una nuova meditante, invece ovviamente era sempre lei. Now, rest assured that this doesn't happen to each and every meditator. Quindi state tranquilli, questo non capita a tutti i meditanti. An illustration that is given in the text for this change of perception is the following. Namely, a butcher rears a cow, and then eventually comes the day when it's time to slaughter it. And so then the butcher slaughters it, and then takes the pieces and goes to a crossroads and then sells those pieces as meat. So at first, the butcher relates to the cow as cow. And then having slaughtered it, then the perception as cow still remains or not? I don't like this example. You don't like this one. I'm sorry. You wouldn't. I think it's in Visuddhi Magar, one of the places. Anyways. But it's, you know. Yeah, it's clear. It's clear. And so, then the butcher will not think of it as cow anymore, but rather as pieces of meat that suddenly he is selling at the crossroads. Mm-hmm. And so, what you have there is a change of perception. Earlier on, the object is seen as a cow. After cutting it up, it turns into meat. Quindi un altro esempio che viene fornito dai testi, da Visuddhi Magga, è quello di un contadino che alleva una mucca, poi arriva il momento di macellare la mucca, quindi la macella, la taglia in pezzi e poi va a venderla sulla strada. E quindi questo è un esempio della differenza di percezione, perché prima viene percepita come un animale, come una mucca, poi invece, una volta macellata e tagliata a pezzi, diventa carne da vendere. So I will try to find a better example in the future. Per scherzare, dicevo che non mi piace questo esempio della mucca macellata, però rende bene l'idea. No, as retreatants, when we start a retreat, we observe, we hear the instructions, we follow them, and we observe objects that are occurring in the body and mind. What kind of, in the course of a couple of days, what kind of change of perception takes place? Quindi come meditanti veniamo ad un ritiro di meditazione e cominciamo a osservare tutto ciò che accade nella mente e nel corpo, ma nell'arco delle giornate che tipo di cambiamento nella percezione avviene? With regard to this body and mind, with regard to what we usually refer to as individual or being. Ecco, quindi in che modo cambia la percezione di ciò che noi normalmente riteniamo essere un individuo o un essere umano? Non ho compreso in che modo, scusami. Inizialmente tu ti percepisci magari in un certo modo, come essere umano, come individuo, ma nell'arco della pratica questa percezione cambia. Allora chiede in che modo cambia la percezione di te come essere? Refinement. Refinement, yes. And apart from this? Quindi c'è un po' è più raffinata, più sottile. Compost of organ, paint, and meat and water. Ah, yes, okay. Like the cow. Quindi si vede la persona come composta di varie parti, di organi, di carne, eccetera. Io aggiunto come la mucca. No. And so when discovering all these different things, what about this being? Quindi una volta che si scoprono tutte queste cose, cosa possiamo dire di questo essere? And what about the notion of a self? E per quanto riguarda la nozione di un sé? Decomposes. Ah, it decomposes, there you go. Che si decompone. So, usually when we start out, we relate to what we call a being as I or my or mine. And so there's a great sense of identification there. But when we carefully analyze carefully observe what is actually happening in the body and the mind, we find, just as Vairamvedananda has said, various physical sensations and meat and this and that, and various mental objects, and that's all. And there's no self to find. E quindi inizialmente noi abbiamo, quando consideriamo il nostro essere, c'è una identificazione con quello che siamo, ci fa dire questo sono io, me, questo è mio, eccetera. Però con l'andare avanti della pratica effettivamente scopriamo quello che diceva Venerabile Medananda, cioè che siamo composti di tante piccole cose, ci sono degli stati mentali, ci sono delle sensazioni fisiche, c'è la carne e tutto quello che compone il corpo, e quindi veniamo a cioè non riusciamo più a trovare quello che inizialmente pensavamo fosse un sé. No, fortunately, your perception is alterable. Otherwise, fortunately, perception is alterable. It's unchangeable. Yes. You know, otherwise, we would be stuck with a certain set of perceptions and go with that set of perceptions through life. Per fortuna la percezione è alterabile, perché altrimenti noi saremmo un po', come dire, bloccati in una serie di percezioni e avremmo quelle per tutta la vita. Now, there is, as most of you will know, the meditation practice of loving kindness, or metta meditation. And so, this metta meditation can be done in a pretty systematic manner. And so, one develops loving kindness first towards oneself, then towards a dear person, very dear person, neutral person, and then if present, an enemy, if such a person or an enemy exists. And so, as one does the metta meditation, over time, loving kindness develops towards oneself, the dear person, very dear person, neutral person, and one's perceived enemy. And eventually, there's equal metta towards oneself and all of the others. And what we have with this is a real breakdown of the barriers. And so even the person whom we saw as an enemy before, we perceived as an enemy, now turns into a person that we see with loving kindness. Ecco, per esempio, tutti conoscete la pratica della metta, cioè della gentilezza amorevole, e questa viene praticata in un modo abbastanza sistematico. Prima si sviluppa la gentilezza amorevole verso se stessi, poi verso una persona cara, una persona molto cara, una persona neutra, poi una persona difficile o una persona che viene percepita come un nemico. Beh, con l'andare avanti della pratica, con sviluppare di questa gentilezza amorevole nella mente, uno scopre che questo sentire, è lo stesso per tutte le persone, per tutte queste categorie, e anche per la persona difficile o la persona che inizialmente era considerata un nemico. Anche verso questa persona si può esprimere la stessa gentilezza amorevole come per se stesso, come per le persone care. E questo è un cambiamento di percezione. So, this change of perception can be extremely valuable when it comes to, let's say, one country relating to another country or area. E questo cambiamento di percezione può avere un grande valore quando si tratta di una nazione che si rapporta ad un'altra nazione, o una zona ad un'altra zona, diciamo, un territorio verso un altro. So if, for instance, the journalists keep describing or portraying another country or group of people as terrible people and whatever you like, all sorts of negative features might be given here. And with this thing, the group or that other country would be seen in a or perceived in a negative way and might easily be perceived as an enemy. Quindi se per esempio i giornalisti riferiscono di un certo paese, una certa popolazione, descrivendolo con caratteristiche molto negative, come se fosse un popolo terribile o questo o quest'altro, allora è facile che la percezione che si avrà di quella popolazione o di quel paese sarà sicuramente negativa e potrebbero essere percepiti come dei nemici. Yeah, so to be really specific, if you think back a couple some years, then over a period of a couple of months, the Iraq was portrayed as a dangerous country possessing nuclear weapons and whatnot, and eventually there was enough emotions activated so that a sense of we are ready to go to war arose, and the war took place, and were any nuclear weapons found? No. Per fare un esempio recente, di qualche mese fa, se vi ricordate, l'Iraq era stato presentato come, era stato descritto come un paese molto pericoloso, dove c'erano terroristi, dove stavano progettando delle armi nucleari, e si è creato un tale spirito, carica emotiva nei confronti dell'Iraq, che si è cominciato a pensare di essere pronti per andare in guerra, tant'è che l'Iraq poi è stato attaccato dall'esercito americano e sono state trovate poi queste armi nucleari. È stato veramente verificato che era un paese così pericoloso? No. Another example. If let's say in your environment or in your community, there is a person who gives you a lot of trouble, then you might see that person as an enemy, but you might also, with wisdom and with patience, perceive the person as a benefactor, because every time this person challenges you, it gives you an opportunity to grow stronger, to become more patient, more equanimous, more balanced. And so what we have here is just a change of perception. So if you see the person as your enemy, things will just get worse. But if you see that other person as your benefactor, then you're on a very good track. Farò un altro esempio: se nel vostro ambiente, nella vostra comunità, fosse una persona che vi sta dando dei problemi, una persona difficile, potrebbe questa persona essere da voi considerata un nemico. Ma se anche lì attivate un cambio di percezione, cominciate a vederla come un benefattore, attraverso appunto uno stato mentale di saggezza e di pazienza, allora la situazione cambia completamente. La persona viene vista come colui o colei che vi aiuta a diventare più forte, a sviluppare una maggiore accettazione, una maggiore pazienza, un maggiore equilibrio, una maggiore equanimità. Per cui anche qui c'è questo esempio di una percezione di un certo tipo: questo è il mio nemico, quindi prenderete una certa direzione, oppure questo è il mio benefattore e ovviamente la strada sarà molto più semplice. No, another case of change of perception is our relationship to the body, especially in terms of the contour or the outline of the body. And under normal circumstances, outside of retreat or beginning of retreat, everyone will say, "I definitely the contour of the body is very clear." But in the course of a retreat, this may change, and one might find at times, even though the legs are properly placed, it might seem as if one leg is pointing backwards, or it may seem as if an arm is warped, or anything like this. But in fact, it's not. No, so it's just a change in perception that is taking place. Un altro cambio di percezione che si può avere in meditazione è quello riguardo al corpo. Fuori dal ritiro, oppure nei primi giorni di un ritiro, potrebbe essere molto chiaro il contorno del corpo, ma con l'andare del tempo, con la pratica, il corpo può essere percepito diversamente. Addirittura una gamba, nonostante le gambe siano incrociate, uno può percepire una gamba girata all'indietro, oppure il braccio distorto, diciamo, nonostante il fatto che invece il corpo è sempre nello stesso modo. And so if one experiences these changes for the first time, yeah, then at least for some yogis it can be quite stressful. Ecco, per un meditante che fa esperienza per la prima volta di queste percezioni così distorte, diciamo, questo può causare un po' di disturbo, insomma, di disagio. Now, in the course of the jhana practice, for instance, also changes in perception take place, and changes in terms of what is prominent. Like in the first jhana, it consists of 5 jhani factors, or aiming, and or let's say vitaka vichara, piti sukha ekagata. So in other words, initial application of the mind, and then sustained application, joy, happiness, and one-pointedness. Anche nella pratica dei jhana c'è un cambiamento di percezioni, per esempio nel primo jhana c'è lo sviluppo di queste cinque facoltà, diciamo. Prima c'è il mirare, poi c'è la the first is okay. Initial application. Sustained application. The first is aiming, right? But same thing. Quindi l'applicazione iniziale o la mira, poi c'è l'applicazione sostenuta. Poi c'è la gioia, yes. Poi c'è la felicità, yeah. E kagata, che è la mente che è focalizzata su un punto. And then, with the deepening of one's jhana practice, depending the first or the second jhani factor fall away, and then only the others remain. And with this then, one's perception again changes. Poi con andare avanti della pratica dei jhana, le prime due di questi fattori vengono a cadere, diciamo, rimangono gli altri tre, e c'è di nuovo un altro cambiamento nella percezione. No. Some time ago in Lumbini I've given a similar talk, and then asked our retreatants for input in terms of what they've experienced in terms of change of perception. A Lumbini, dopo aver fatto un discorso simile a quello di questa sera, ho chiesto ai meditanti di contribuire facendo delle loro osservazioni riguardo ai loro cambiamenti di percezione durante la pratica. Some of the things that were mentioned are as follows, namely perception with regard to change of perception with regard to food. That was mentioned. Quindi hanno elencato questi cambiamenti nelle percezioni, quindi percezione del cibo, people and others, guardare le persone o di altri, old age, so growing older, il fatto di diventare vecchi, dell'invecchiare, sickness, la malattia, death, la morte, projections, le proiezioni, I forgot, self, il sé, and then there was one retreat in Australia who was extremely afraid of spiders, even dead spiders. Mm-hmm. And in Lumini also we had another retreat like this. And in her case, over in the course of maybe 1 month or so, the fear of spiders greatly decreased. Mm-hmm. And she managed to live in a room with them, peacefully together with the spiders. Ci sono anche casi di meditanti che hanno terrore dei ragni, anche morti, e hanno riferito nel corso di un mese o due di ritiro che sono riusciti a superare questa paura, e uno addirittura viveva poi in pace con dei ragni in camera. And suddenly, people have said, perceptions become fresher, newer. Poi qualcuno ha riferito che le percezioni diventano più fresche, più nuove. And less cluttered by projections. E sono meno, come dire, affollate da proiezioni, cioè contengono meno proiezioni. And so, then our relationship to concepts in themselves also changes, and these are seen as not the same as reality. So when it sees that a concept is just a concept, it's just something artificial. E anche la nostra relazione con i concetti, cioè uno comincia a vedere che i concetti non sono la realtà, sono una cosa artificiale. And so then a very well-known example for a change of perception is with regard to what we call or perceive as noise. Un altro esempio molto importante, comune sui cambiamenti di percezione è quello che noi chiamiamo il rumore, il suono. And so, rumore, a retreatant might suddenly hear some sound, it could be some banging or some someone snoring or whatever it might be. And so, so at first this is perceived as noise. When in fact it's just the sound. Mm. Inizialmente un meditante potrebbe udire un suono e come può essere per esempio battere oppure un russare o una cosa di questo genere e può essere percepito come rumore, invece è solo un suono. Now, with the deepening of one's practice and the arising of more and more one point in this concentration, absorption, then the mind or one's attention doesn't go that much to external objects, and with this, then the so-called noise is no longer a problem. E con lo sviluppo della pratica, della concentrazione, allora c'è un rivolgere l'attenzione più verso l'interno e meno verso l'esterno, e quindi questo rumore, che inizialmente veniva percepito come rumore, è visto semplicemente come un suono e non è così disturbante. No, just briefly, it might worth mentioning that misperceptions, so flawed perceptions, oftentimes are the cause for conflicts. And those conflicts suddenly are basically useless. The fighting over a misperception. Un'altra cosa da dire è che queste percezioni errate, diciamo, possono essere la causa di molti conflitti. E ovviamente questi litigi o queste lotte, questi conflitti su delle percezioni errate sono del tutto inutili. So, a beautiful example can be found in the Udana, and there the Buddha describes a king at some long time ago who then asked that all blind men of his kingdom be gathered, and he then had those blind men experience an elephant. Quindi un esempio che è riportato nei testi è che il Buddha stesso raccontava di un re che aveva riunito nel suo regno tutte le persone cieche, non vedenti, e le aveva chiesto loro di descrivere un elefante. And suddenly, so one blind man was shown the trunk, and so he touched the trunk, and suddenly then thought, okay, an elephant is this. And suddenly another blind man touched the foot of the elephant, and suddenly then came to the conclusion that well, an elephant is rather like a pillar. And then yet another blind man was suddenly shown the tail of foot near the elephant, and so he then thought an elephant is a stick with some hard hairs on it. And suddenly then the king summoned all those blind men and asked them, what is, according to your understanding, your experience, an elephant? And so one by one, they reported what, according to their opinion, is an elephant. So to one, it was the trunk, to another, it was the the foot, and to another, the tail. And so in no time, they all got into a fight with one another because they disagreed. Quindi a questi queste persone non vedenti è stato portato un elefante affinché loro potessero toccarlo e descrivere cos'era secondo loro un elefante. Quindi uno ha toccato il tronco e ha detto, beh, questo deve essere loro un elefante, come un tronco. Un altro ha toccato la zampa e ha detto, ah, questo sembra un pilastro, quindi un elefante è come un pilastro. Un altro ancora ha toccato la coda, dice, vabbè, è come un bastone con in fondo un po' di peli, insomma. E ognuno ovviamente aveva un'idea diversa dell'elefante. Quando poi il re li ha chiamati, ha chiesto loro di descrivere cos'era un elefante, ovviamente tutti avevano una versione diversa. E di lì a poco cominciarono a litigare perché nessuno, ovviamente, tra di loro non erano d'accordo su che cosa fosse veramente un elefante. Yeah, so because the blind man, when touched the foot of the elephant, said, okay, it's like a pillar. And the one who had held hold on to the tail, said, no, an elephant is more like a stick with hard hair on it. Mm. And so obviously they disagreed. Mm. Their perceptions were different. Mm. Perché ovviamente la persona cieca che aveva toccato la zampa diceva l'elefante è come un pilastro, mentre invece l'altro che aveva toccato la coda fa no, è come un bastone. Avendo opinioni diverse, ovviamente si è creato un conflitto tra i due. Now, allow me to conclude our Dhamma talk today with a couple of verses from the Anguttara Nikaya, which I'm quoting from Andrew Olensky this appeared in the Insight magazine. Quindi adesso il Venerabile citerà delle parole dell'Anuttara Nikaya, così come vengono riportate in un articolo di Jack Olensky. No, Andrew Olensky in una rivista chiamata Insight. And so the title is The Distortions of the Mind, which is another aspect, important aspect with regard to perception. E il titolo di questo articolo è Le distorsioni della mente, ed è un altro aspetto delle percezioni. Let's do it like this. I'll read out everything in English and then Okay. Prima lo leggerà tutto in inglese e non devo sforzarmi di ricordare, poi me lo dà e tradurrò direttamente. So the text goes as certain and follows. These four retreatants are distortions of perception, distortions of thought, distortions of view, sensing no change in the changing, sensing pleasure in suffering, assuming self where there is no self, sensing the unlovely as lovely, gone astray with wrong views, beings misperceive with distorted minds. Bound in the bondage of Mara, those people are far from safety. They're beings that go on flowing, going again and again, from death to birth. But when in the world of darkness, Buddhas arise to make things bright, they present this profound teaching which brings suffering to an end. When those with wisdom have heard this, they recuperate their right mind. They see change in what is changing, suffering where there's suffering, non-self in what is without self. They see the unlovely as such. By this acceptance of right view, they overcome all suffering. Oh, you manage? Yeah, I'll keep it far enough. Okay. Do you want to use these? No, I think I can see all day. Allora, questi quattro monaci sono le distorsioni della percezione, la distorsione dei pensieri, la distorsione del modo di vedere. Vedere nessun cambiamento in ciò che cambia. il vedere il piacere nella sofferenza, il supporre un sé dove non c'è un sé, il percepire ciò che non è bello come ciò che è bello. Quindi questo perdersi nelle visioni errate, con questo perdersi nelle visioni errate, gli esseri percepiscono in maniera sbagliata e con delle menti distorte. Sono intrappolati nella schiavitù di Mara, e queste persone sono lontane dalla sicurezza. Sono esseri che continuano ad andare avanti, a fluire ripetutamente dalla morte alla nascita. Ma quando nel mondo dell'oscurità sorgono dei Buddha che rendono le cose luminose e presentano questi profondi insegnamenti che portano la sofferenza ad una sua fine, quando quelli con saggezza hanno ascoltato questi insegnamenti, recuperano la loro giusta mente, la loro mente retta, vedono il cambiamento in ciò che cambia, la sofferenza dove c'è la sofferenza, vedono il non sé in ciò che è senza un sé, vedono ciò che non è bello come tale. Ed è attraverso questa accettazione del giusto modo di vedere che loro superano tutta la sofferenza. E finiamo qui per questa sera.